di progetto sonoro del quale è uscito anche un album recentemente e anche un EP, diciamo, quantomeno sta per uscire anche un EP che presto ci ascolteremo in sede di prove tecniche di trasmissione. Lui ci sta ascoltando dalla Sardegna. Abbiamo anche Sara Boy, anche lei è vissuta in Sardegna, mentre al momento è a Berlino. Salutiamo invece Mariano qui a Roma. Salutiamo anche Anna. Bentornata a Venusia Zozzetta Stramonio, già in piena effervescenza dopo qualche tempo di assenza. Maya in Umbria. La Furnasetta, progetto industrial proveniente dal Piemonte. Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo. Un saluto anche a Chris Florido del Canto di Vesta, che ci ha tenuto compagnia per molte settimane qui a Disorder. Altro artista in procinto di sfornare un nuovo lavoro è Ernesti Panico Brusazzi, naturalmente con Panico da palcoscenico. Barbara Caridi qui a Roma. Infine salutiamo Francesco Cornello, che fedelissimo ci ascolta da Bergamo, e abbiamo anche Holgerd Ferenc, Olga, anche stasera presente nella nostra playlist. Andiamo a cominciare con le suggestioni medieval, neoclassiche e marziali appartenenenti alla Ataraxia, dei quali è uscito un ultimissimo lavoro dal nome Centaurea. Li ricordiamo anche in passato a suonare qui a Roma in sottoscrizione per Radio Onda Rossa, e quindi è un ulteriore motivo per mandarli, oltre al piacere psicofisico che ci provoca la loro bellissima musica. Ci ascolteremo Porzelene e Nox Incubat. Sure. il fascino arcaico ed arcano, la pagana sacralità che emana ogni nota di questo centaurea per Ataraxia, così sognante, così figlio di non essere proprio assolutamente temporale, al di fuori del tempo e delle epoche. Aqua Mater e Viridatis, le due tracce splendide, soprattutto la seconda, devo dire, per questa ultima fatica di Francesca Nicoli e soci. Le qualità che ho enunciato orora, l'essere medievaleggiante, essere neosinfonici, neoclassici, essere un po' come una sorta di candela che illumina una stanza, che è un'immagine legata a un immaginario, se vogliamo, appunto arcaico, sono caratteristiche che vanno a caratterizzare anche l'ultima fatica dei Camerata Mediolanense. Ricordiamo un luogo fisico del Rinascimento, appunto le Camerate, dove si riunivano musicisti, poeti, letterati e mostravano agli altri la loro arte, un po' come per certi aspetti in altri contesti la musica da camera. Ovviamente da Milano, come si può intuire dall'aggettivo, e sono giunti anche loro all'ultimo lavoro dal nome Atalanta Fugens, che prende ispirazioni da uno scritto dell'alchimista e medico Michael Mayer. Si apre con Embrio Ventosa e poi Rosebon. rientrare nel rosaio dei filosofi senza avere la chiave. È come l'uomo che vorrebbe camminare, che vorrebbe senza avere i piedi, senza avere i piedi, che vorrebbe camminare i piedi, chi tenta di entrare nel rosario dei filosofi. Anche qui la potenza, il fascino, la classe di Camerata Mediolanense. Ormai 30 anni anche per loro di grande carriera, assenti da 7 anni dalle Vergini Folli, li ricordiamo, album al femminile. Questo è Atalanta Fugens, come ho detto, ispirato agli scritti di Michael Mayer. Forse formazione diciamo dinamica, anche se il nucleo diciamo fisso è Elena Previdi, pianoforte e tastiere, e le percussioni di Manuel Aroldi. Poi c'è Trevor, Marco Colombo, attualmente le voci, queste splendide voci di Desiree Corapi e Carmen D'Onofrio. Un album che sarebbe stato anche adatto in sezione di prove tecniche e di trasmissioni, ma alla fine, forse per metterli accanto ad Araxia, ho optato per mandarli qui a Disorder. Adesso arriviamo qui a Roma, anche se lui è polacco, ci sta ascoltando, lo risaluto, Orged Ferenc. E quindi parliamo di Olga. Efficacissimo synth pop con influenze anche IBM, e quindi anche questa sera ci andremo ad ascoltare un paio di passaggi: Skadwiec, Zini e Mislitz, e un altro diciamo singolo dal nome Tuiteras.